Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, ripartiamo dalla rivoluzione che è attesa di fatto nelle prossime settimane sul fronte dell'organizzazione del sistema bancario. Domani infatti una tappa importante per il progetto europeo, progetto che in qualche modo è stato reso ancora più urgente dalla crisi di Cipro. Abbiamo parlato col commissario europeo Michel Barnier, ci ha ricordato di questo progetto che tocca 6.000 istituti di credito ed è stata anche l'occasione per ricordare qual è l'essenza, lo scopo principale di un istituto bancario. Sentiamolo. Per me la crisi di Cipro e la maniera dont elle a été réglée, ce n'est pas le modello. Per me la crisi di Cipro e come è stata risolta non è certo il modello da seguire. Precisamente, il faut tirer les leçons. Bisogna proprio fare invece vedere quali sono le lezioni che possiamo tirare da questo. Da qua parle-t-on? Esempio, allora. Parliamo di cosa quando parliamo di banche? Parliamo della fonte principale di finanziamento dell'economia. Il 70% dell'economia italiana, comunque europea, e quindi l'impresa, le province, la regione, il consumo, questo 70% è finanziato dalle banche. E allo stesso tempo parliamo anche della fonte principale di rischio. Ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare, cioè ripristinare basi solide per il settore bancario affinché le banche ricomincino a fare quello che è il loro mestiere, e cioè prestare soldi alle imprese, segnatamente alle piccole e medie imprese, finanziare i territori. En étant robuste. E allo stesso tempo le banche devono essere robuste, devono essere ben capitalizzate, ben sorvegliate, ben governate. Barnier, lo ricordo, è commissario al mercato interno e ai servizi finanziari. E ora parliamo di quello che è senz'altro uno dei grandi successi, forse quello più noto del sistema europeo. Infatti a 25 anni dalla nascita il progetto Erasmus tocca il record di 3 milioni di studenti. Sentiamo. Un esame a Napoli, l'altro a Madrid, un seminario a Roma, l'altro a Berlino. Biglietto aereo e libretto universitario in mano, i figli dell'Erasmus sono i primi veri cittadini d'Europa e crescono sempre di più. Sono stati già 3 milioni gli studenti che hanno frequentato atenei stranieri nei 25 anni di vita del progetto comunitario, che nel segno del filosofo olandese ha contribuito per primo a fare gli europei, dopo che era stata fatta l'Europa. E anche, o forse ancor di più ora, in tempi di crisi, uscire dai propri confini è considerato un'opportunità, tanto che gli ultimi dati della Commissione europea per l'anno accademico 2011-2012 registrano un aumento del 9% delle borse di studio concesse rispetto ai precedenti 12 mesi. Un programma più importante che mai in tempi di elevata disoccupazione giovanile, commenta soddisfatta la commissaria europea per l'istruzione e la cultura Andrulla Bassiliu. Tre soprattutto i paesi storicamente cuore dell'Erasmus, riporta il portavoce del settore educazione e gioventù Danny Sabot. Se dunque Spagna, Francia e Germania sono le destinazioni più popolari, è il paese iberico il primo anche per partenza di studenti, che aumentano pure in Italia, 23.000 nell'ultimo anno. I laureandi europei che arrivano da noi scelgono invece soprattutto Bologna, terzo ateneo più gettonato dopo Granada e Madrid. Se in mezzo secolo di vita l'esperienza internazionale ha aumentato l'occupabilità dei figli di Erasmus, come nota il commissario, dall'anno prossimo il progetto più popolare d'Europa diventa Plus, 40% di fondi in più per 16 miliardi di euro, con l'obiettivo di aiutare 4 milioni di giovani in 7 anni a studiare all'estero e trovare la loro strada. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare gli scambi giovanili proposti dall'Associazione Vicolo Corto di Pesaro nell'ambito del programma della Commissione Europea Gioventù in Azione. Per l'estate 2013 sono ancora diverse le disponibilità: un campo di educazione ambientale in Macedonia, una settimana centrata sulla conoscenza dei diritti dell'uomo in Polonia, un workshop in Lituania per cercare soluzioni concrete per aiutare i ragazzi alla ricerca di un lavoro e infine un'esperienza interculturale su un'isola semideserta in Danimarca per vivere con 20 ragazzi di Portogallo, Spagna, Austria e Germania senza internet, cellulari e computer. Il vitto, l'alloggio e il rimborso del 70% del viaggio sono garantiti dai fondi europei. Per informazioni e iscrizioni, vicolocorto.org. E naturalmente radio24.it per questo tipo di informazioni, per tutte le informazioni che mandiamo in onda. Bene, siamo alla fine. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento è per domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.